Gambari! E beh, signor Store! E allora, in giro eri, no? No, in chatta. Prima ha caricato il cane, ancora. E adesso sono qua. Ah, io pensavo che già in giro, il Giulio si è fatto la fatta mora, era Giulio, il PMR. Ma, 5 minuti, non di più, mi la buona si sta a caso. Mi sarà così subito io, per cui no. No, mi sono fatto un bel pisolino, poi mi sono quiscitato, ha tenuto giusto e ho sentito a Giulio, va. E così via, ed eccoci qua. Andiamo bene allora. Andiamo bene, andiamo. Noi andiamo sempre bene, a voi, in casa da Mari, e a Milepo, e non siamo in fa. Noi siamo andati sempre bene, da Buccia, da Mari, cosa siamo in fa. Andiamo, aspetta, signor Battisio! Chissà cosa combinate, chi si sta cacciando l'apparecchio, stasera non penso che sia parlato di campagna, no? No, c'è neanche la domenica sera, scendi. Dove sei già a casa? Dario l'ha accesa ancora, non ho sentito a nessun altro. Era cosa chiamando, come si chiama? Leoncino stava chiamando, focato. Noi 27 PMR, però non potevo rispondere che stavo facendo cosa. Vai 27, tutto morto. Solo noi entriamo in 27, poca gente. Noi lo sfruttiamo fino alla fine, cosa vuoi fare? Vuol dire che prima o poi ci staccheremo anche noi. Anda, chietta, sì che ce ne lo facciamo andare. Allora, picca la barca va, siamo andando, quando anda, cosa vuoi fare? Non è che si può fare diversamente. Però, ancora siamo qua. Per cui almeno la sera poco, però la chiacchieratina adesso la facciamo ugualmente, e se vuoi fare infatti una piccola chiacchieratina si può fare, tanto va a farla andare un po' Gaido, poi Gaido ci riserveremo anche di Gaido, boh. Mi ha acceso quest'altro. Oddio, si sta vedendo un po' a farlo scaldare, com'è la radio? Ah, già è buona, radio, la 5 perfetta, comprensibile, bene, limpida. Così che vedo un po' anche se si usa poco e niente, però quando la senti funziona. E tu la tempo funziona, finché funziona, non funziona più, ce lo buttiamo dentro il cassonetto, non accorse più niente, non accorse di niente, che guarda di faccia e mi dice di carrida. Ma perché così poco, ma si possono riparare almeno quelli. Questi, chi li ripara? Questi che va, prima c'era Bianconi a Bologna, non c'è più quello lì, non so se ci hanno messo qualche domanda, non lo so, però magari ci saranno quelli che riparano, però come Bianconi forse era l'unico in Italia che faceva questi lavori ben fatti. Infatti, già c'è quell'altro che li aggiusta, ma ti si chiama? E chi l'altro? Negrini me l'ha rovinato di più quando l'ha chiusa da Enzo, così che si può immaginare. E chi è l'altro che lavora con sincerità? Io so che l'unico era Negrini, ma cosa? Quello di Bologna, quello sì lavorava proprio con la sincerità. tutti quanti a bagare, però quando lo riparava era perfetto. E non c'è più nessuno va, sempre qualcuno già c'è in Italia, perché non lo conosciamo lui, ma già c'è. Ehi, non lo metto in dubbio, bisogna saperlo però, ormai io sentivo sempre gli accordi, ho visto che ci ha fatto un lavoro ben fatto, per cui non gli ho sentito mai lamentarsi le riparazioni che ha fatto Bianconi, puoi immaginare, faceva le cose per fatto, sapeva, conosceva le apparecchiature benissimo, per cui un bravo tecnico, magari forse a cazzo mette il tasso, bisogna saperlo, però non ha consentito, io ripeto, quando si guarda non lo rifare più, non vale più la pena, cosa la cosa fa? Ma che sei grossi? Eia! Allora, buonanotte, quelli sono molto difficili da aggiustare, e se non si conoscono no, bisogna mandarli piani sul luogo, pazienza. E allora, e Baracchini, una volta abbiamo mandato un Intec Multicon 80 canali a Cosio, ad Avezzano, Cosio, Vittorio Luna Rossa. Abbiamo spedito per aggiustare lo smitter che non funzionava bene, si bloccava ogni tanto, si è attento 3 mesi e ce l'hanno mandato più guasto di prima, non funzionava più niente, tu ti immagini che era ridicolo. Dopo che abbiamo telefonato e dice abbiamo cambiato tecnico, questo non è capace a niente, ha rovinato le apparecchie, cazzo, e voi avete preso una persona del genere, cazzo, bella reputazione vi siete fatti, ce l'ha rovinato di più e infatti gli hanno raddrizzati Vittorio a quelli lì, capito? Il tecnico delle aerei elettronica. Vedo che se non conosci, non sa cosa vuol dire con te, allora falli pagare danni e buh. Ma dopo chi era l'altro che avevo preso l'S9, cazzo, 380 euro ho pagato, quando è arrivato l'ho acceso e c'era l'ultimo numero del frequenzimetro che ballava, si spegneva, si accendeva, ho telefonato e mi ha detto, dice, ehi, riportamelo qua, rimandamelo, gli ho rimandato, dopo la settimana mi è arrivato, sì, funzionava per 2 o 3 giorni, funzionava dopo, hanno cominciato anche gli altri numeri a spegnersi. E poi ho detto, ma sì, lo lascio così e ci avevo l'apparecchio, funzionava bene. Poi i numeri delle S9 del frequenzimetro si sono spenti, la metà si spegnevano e si accendevano e così sempre. E tuttora così quella parete. Non sono riuscito mai a metterla a posto. Non ce n'è come prima, no, di gente che l'aggiusta bene, cosa, ma anche tu uno ma andava a lasciare a pizzo. C'era Carlo di Chiaramonti, anche quello qualcosa la faceva anche bene, però mi sembra che quello non fa più niente perché è anziano e non a quanto ho sentito dice non lavora più, per cui ma chi è che deve fare questi apparecchi adesso? Così che non conviene nemmeno perché tanto vale più la pena. Quando si rovina, io ce lo butto, tanto non si perde, guarda. Infatti, non si guarda, ne lasciamo un abbassi e arrivederci. Permesso? Buonasera signor Bacchisio. E allora? Come mi ascolti, Tore? con la trombetta, ma già ti ascolto bene. Trombettando sta, aspetta un po'. Adesso? Ah, vai ancora a bici. È sicuro, va. Ho cambiato transito. E così inserito. Così c'è la trombetta. Ehi, se c'è un rumore che hanno molle, va drrr. Nulla. Nulla. Fumo, fumo. E niente, è rosso. Aspetta che stiamo fumando. E c'è anche Gian Maria, c'è. Riprenditela Gian Maria. E chi è? Marino. Ma là c'era signor Bacchiglio. Cazzo, oggi ti sento bene, vai. Chi è l'altro? Un po' di roba qua che stiamo andando a fumo. Ma chi? Ha detto che sta andando a fumo e se ne fumo. Arriviamo di buon piedi, Bacchi. Male sta funzionando, no, se ci va bene. No, era a trombetta, stava uscendo. E poi ha peggiorato. Dopo. Trombetta, trombettina, sempre il Bacchiglio, cazzo. Boh. Cazzo, ma alla fine di trombetta, Bacchiglio. Sì che è già ora di lilla, di. Ma io trombo sempre, capito? Io trombo sempre. Voi se la trombate invece per lui. Beato che riesce a trombettare sempre. E sono tutti che possono trombettare, Bacchiglio, però. Beato a te allora. Ma così che se ne ha futti. Vabbè, fermo così. Io se vuoi fare. Vai, Bacchi, vai, avanti, attacci il sesso, dai. Aspetta, che piatto tutto, lo stavo provando su un panno, si è riscaldato, sta prendendo poco lo panno. Aspetta che si riscaldò tutto, che come rimango la galassa. Ma se minoghi. E raccomando, fare uno due per farli però, hai questa gran faccia. Se no si va a ridurre la 93. Bisogna stare a avere il fumo, non mi piace assai a me. Però succedono anche queste cose. Già sta funzionando. Ok, avvio, purtroppo succedono, però più poco si deve meglio è. Fai della rete, ma se mi ha difogato il cibo un video ti può essere un cazzoletto. Allora bisogna dirle a lunga vita se così. Allora, avanti c'è a parecchi cazzo del 1900 fruscia. Cosa li fai? Cosa fai per lì? Buttali via! Cazzo, ne prendi uno nuovo, moderno, e sei tranquillo. Io non so che stavo che ti dice, che sta cosa, ma con un tempo che pensi, che non altro, per carità. Ah, è così mi faccio. Ah, io devo trattenere il coso, sto adoperando, ma ti sei già maro. Il presidente. Ma quello sta funzionando bene, dai. Quello sta funzionando bene. Quell'altro non è attaccato più. No, già ce li ho tutti e tre attaccati. Sono sudati. Ma già sono attaccati. Devo attaccare se attaccare tu. Io ho provato questa volta. Almeno a farlo scaldare. Poi se il bongo la batti e che non tocca più. Infatti questo devo fare io. Devo fare lì e d'altro. Ma avevo preso quello nuovo omologato. Ultimamente ne avevo preso due omologati. Il presidente Barri e coso, quell'altro, il 2000, CRT 2000. Oh, cazzo, 125 euro pagato, cazzo. Devi venire, cazzo. Però è digitale tutto quello lì. Ma capicina quello presidente Birri, è tutta un'altra cosa, è una farina. Macello, quello là, l'ho preciso al tuo, non l'ho toccato più. No. Perché? Perché sto usando quell'altro, capito? Che a farle girare, se no ne ho tutte le scatole, ogni tanto ne accendo uno. Come ne vale via tutti quanti? Anch'io sto facendo così, ogni tanto ne posso via uno. Infatti, perché non li puoi lasciare tanto, sì. Succede sempre qualcosa, capito? E allora bisogna ogni tanto buttare fuori e un'oretta a farle saldare, però bisogna farlo a chiacchierare pure, non è che lo fai saldare e basta, no, devi parlarci, sennò siamo sempre lì, capito? Sia per la ricezione sia per la trasmissione. Infatti, è così, bisogna stare a parlarci sopra e coso. Sì, vabbè, no, piano piano, mi sono trattenuto qui, un altro momento ho tratto che d'altro. Sì, che la barca qua, la domanda, già sto più per il cassettone, anzi, oggi sono pieni, pure in terra li sono ponenti. Se no, che te la giù di fronte io, è la matta sigosa. Cazzo. La domenica non passa perché le poche che ha già riuscito da stare in cucina. Lei arrivò, legali, tanto l'animale che ha già fatto il macello, cazzo, l'animale ha fatto roba, poco roba in terra, cazzo, fare un buon dettaglio, pare, cazzo, ai nomi, che ce l'ha a goffo, per carità. Come dice, cazzo, ma che mai no? Se lei fa la cazzo, Dio, il cassone era buono in terra, ma roba la macchina, a me danno fastidio, cazzo, quando fa di cose del genere. Ma se Dio, il cassettone, l'ha fatto di resto, perché no, in terra della lappa. Perché quelli sono la gente che è abituata a buttarla per terra, hai capito? No, non apre nemmeno il gassonetto, era buono in terra, tanto gli ha passato un mondadoia da buio. Ma che ci bisogna punire una vera contravvenzione? Ma chi ci bisogna sentarli e farli pagare una bella multa, ma si imparano a fare le cose come si vede. Già che vi sono bene che non differenzia già niente, siamo preoccupati di aiutare, cazzo, però io lo so con bagoglio, cazzo, non mandrò a fare la differenziata, cazzo, tutti i due luoghi di discutere e basta, cazzo, chi ci bisogna intaccarli, cazzo, in modo che fare a essere più puliti. E tra poco già passerà la porta a porta, passeremo, tutti quanti, voi voglio vedere si passano, si ravvagini o no? Vediamo, infatti, se mi dicevo bene che non li fatti, bene, ma io ripeto lì, avevo il volto in sala, li ho davanti, li cazzo essere, li batterizzare al goffo, cazzo, mi dicevo bene, cazzo, ma cosa ti gusta, cazzo, fai la differenza, perché no, tutti in un luogo di cubri, cazzo. Bisogna peccare e fargli fare una bella multa in modo che la prossima volta la possiamo decidere. Infatti, così è, bisogna fare una multa e boh. Allora, ciao Bacchi, raccontavemo. Non stai uscendo? Nulla da va. Non va bene così, là. Cazzo, stavo uscendo adesso, ma se ti tocchetti, cazzo, ma chi? Cazzo, leggero con le mani, Signor Bacchi, poi c'è appunto, vai. Mi pare che il Bacchi si deve accostare e capace di tutto. Bacchi, io, aiuto, cazzo. Matta nera in quella zona, accetto, fumata nera. Deve essere. Ancora a voi, ma c'è il signor Bacchi. Oh, ha pigliato un cecchio di leva, ma faceva un bumbo. Ah, non penso, no. Già, mette a posto lui. Allora, la giabacchina. E la segna che lui che carregheni a fulmine a carregheni. Cos'è? Che in qualche posto dove si sta scaricando fulmini, vedete se è temporale. Ma non sento niente io. Ma in lontananza deve essere in lontananza proprio. Boh, ma con QRM, vero? Non sento nemmeno QRM io, nulla, C'è silenzio completamente. Ma c'hai lo squarci un po' chiuso. Senz'altro c'era la base di Nuoro, Oristano, quella zona. Pinocchio, è pulita l'aria, così che puoi immaginare, però non sento niente io, nulla, scariche, niente. No, ma ogni tanto la sento, una scarica, ma un bel lontano. E beh, quella massa fatta gli alavivi, quello che stavamo parlando l'altra volta. No, non l'ho ancora fatto, non si riesce da ciappare una piastra. Per l'inverno, per cui bisogna a fargliela con la massa. Io mi devo buttare un'altra bottiglia d'acqua in quel vaso grande, per il sicuro, però già sto facendo massa, per cui sono più tranquillo, dai. Da poi che arriverà, dove è massa che la manteglia è. Bisogna che io mi venga un coso, un vasetto di interracotta, monga un po' di sabbia sotto, la terra e un pezzo di ferro dentro. Sai come ho fatto io. Lì sa che vedi terra, ogni tanto dentro da campo l'aveva per avere la terra umida, e a ruferro da poi l'attacco la massa e la massa direttamente all'apparato che si è trattino, capito? E in occasione di tre attaccati, tutti e tre fare la massa, che la massa gli avrei. E quindi faccio così, meglio un coso di terracotta. E metto un po' di sabbia sotto e un po' di... e rubino a terra l'orrico. Quindi gli metto il ferro in mezzo e faccio così, fotto. Di denaro, di monetine da un euro. E di quelle non ne ho, cazzo. Quelle non ne ho. E di quelle d'oro ci vorrebbero. No, non lo serve, sono le monete. Le monete di un euro, che sono di metallo, bronzo o ferro. E di quanto ve ne vuoi? Catta, a me non me ne vuoi 4 o 5 kg ve ne vuoi. Però se voglio sia, per un momento a te, che viene a fare dei bidi. Ehi, fanno dei bei vigiarani, ma non dei vici. Io sono quando fa i cinesi, chi vi? Di fronte a certe razze, allora a base lire, ma prima per i chinesi e sono quando arrivi e ha visto un suo vasetto da racconta, sarà stato quasi 50 centimetri, 3 più, però un po' grosso, quasi meno meno di terra e sabbia, quasi molto ferro dentro, ben distaccata e la massa per la giubbata così. Certo, ho visto che funziona, Oppure una piastra di ottone, forse due cose, due lascelle, attaccate a muro, così pure andava. Adesso guardo, che messi prima, che è meno ingombrabile, forzo. Meno ingombrabile pure, vabbè, dai, io te lo metto qua dietro la televisione, non si vede nemmeno. Sull'angolo, come se si è vestito un pezzo, in modo che si attacca per tre apparecchi qua, per cui la massa mi scrive, ogni tanto un rave ci butto un secchio, una bottiglia d'acqua, ed è sempre a massa, oppure ripeto, faccio in sala e sarà fatto così, tre mobili, ho trovato le stazziate in rame, l'ho messo due sacelli e quelli in sala sono ammazzati in giga. Sì, intanto cosa guardo a vedere se riesco a trovarla una piastra in ottone. Vedi? Però si abbacchi. Ehi, ma sta andando mal sito. Sono un buccafoglio in mano, eccetera, dottore anche di rame. Ma c'è di avvisare, in tutti i tipi di abbacchi, un pezzo. Anche un pezzo, 15, ma 15 ne andrà bene. Infatti, se vedessi acciappando un pezzo minore, era un botto. Un coso, sbongo due bulloni, un tassello e su cappuccio. E infatti, la madre dei ragazzi mobili, in modo che lo si vede, va bene ugualmente. Oppure prendi come ho fatto io qua, col vasetto terracotta, con un ferro dentro, per cui va bene in città. La piastra magari prende meno posto. Perché parte a Cattaburo e per cui va bene ugualmente, stacchi! Allora, la piastra non funziona così, se vuoi fare una massa a terra come si deve, ci vuole il carbone, una lastra di rame, carbone e terra, perché il carbone tiene l'umidità, capito? Allora funziona sempre, non terra e ferro, il ferro si arrugginisce e non fa di nulla. Carbone, cazzai un carbone, boh, ma non credo, ma può essere anche, non lo metto in dubbio. No, io ci ho messo terra e sabbia, capito, che ho fatto, si sta accaduto bene, era un ferro ricco, un ferro da cire, vedi, in mezzo. Buttaggi molto un boccetto con un tipo di massa, boh! Non funziona, ce l'hai per bellezza, ma che se tu lo provi non tira un cavolo, il ferro non assorbe, la sabbia si asciuga, la terra viene con le patate, tu ci metti il carbone, terra, carbone, se poi c'è argilla spansa, sopra di mettere argilla spansa, una volta nei cantieri si faceva la massa terra per la betumiera, per il motocarico che via dicendo. Allora si faceva una buca, si metteva una lastra di rame sotto col filo che usciva, sopra il pezzo di rame il carbone, poi la terra e la grilla spansa. E ogni giorno si buttava mezzo secchio d'acqua. E le betumiere e i motocarichi andavano bene, perché quando veniva la misura di quello di Lempi, se non funzionava di ordine verbale, allora deve fare un lavoro. Vabbè, infatti in tante maniere la massa si può fare, ma in tante maniere, io rispetto a fatti questa meraviglia questo, per me va bene ugualmente, poi uno prova a farla così, so, ci metti il carbone, vediamo un po', carbone e terra. Se c'è la piastra o una cosa o l'altra, capito? Però massimo è meglio averla sempre, capito? Perché è ci vuole una massa. Se no, basta prendere una treccia di massa terra, farla arrotolata e messa un bel po' sotto e funziona lo stesso. Però deve avere qualcosa che assorba, che mantenga l'umidità. Capito, ecco. Sì, questo che da maniera. Adesso guardo, o la piastra o la bacchiera. La piastra ci vuole sempre la bacchiera. Adesso però, qua in casa, in cortile, la mia sorella, il capo mio scende in cortile mia sorella. Era fatto l'elettricista di un amico di mio cognato, la Massaterra. Ci ha messo un picchetto di un metro e qualcosa, ha scavato in giro, ci ha messo il carbone e la cosa, la terra. E dove c'è l'umidità sempre. E andiamo, e andiamo. E facciamo così. Te lo puoi fare in cortile, ci butti un capo in cortile e te lo fai. Sì, così mi arrezzani. C'è da dire una cosa a qualcuno. Arrivederci. Una cosa, non ti costa nulla. Lo fai scendere a fianco al tubo del pluviale. Ci mettiamo un picchietto a terra e sei a posto. Sei sicuro? Beh, un altro mio. Se non si chiede, si fa sentire ogni addanto, si fa sentire. Andare. Ciao Antonello. Ok, riprendetela Giovanni. Ciucu, buonasera. Poca se c'era Giuseppe. Pronto, ma non era pronto. Attone. Ma dopo il 27 non penso proprio perché non c'è antenna. Io ho costruito una stasera per la 27. In PMR sarà al limite. Io ti ho chiamato Gio Maria, ma non mi hai risposto per niente, e tu sei stato come dottore, figurati. Stavate parlando della salita di Usilo. Della salita di Usilo? Sì, per fare la cosa, la salita di Usilo. Ah, con le macchine? No, non so se con le macchine, con la moto, a piedi, cosa ne so io. Infatti gli ho mandato un messaggio a te, ho detto se vuoi una mano, ho detto te la do. Proprio per gli apparati non laggio, se vuoi apparecchi sulla 27, se no se vuoi PMR altrettanto. Per fare questa cosa qua si busca persone. Problemi di apparati, grazie a Dio non ne ho. Ne ho tre. 3 per la 27 e 4 per il PMR, quindi vivo di due. Ma sapete là sai che è meglio, non ci deve fare nulla, certo. Ci vogliono un sacco di persone, cioè almeno ci vogliono almeno 10-12 persone, ci vogliono, non ci deve fare nulla io, ci deve fare due bu. Ah, ma cosa dice 12 persone? Uno basta solamente su al dove c'è le come si chiama, il capetto di calcio qua sopra, ne basta uno. Uno vuole giù alla discesa dove c'è la fontana, l'altro va alla, come si dice, a metà strada prima di arrivare a Usilo, e l'altro su alla, come si chiama, nel paese, basta, non ci vuole nessuno, sono 4-5 persone, non di più, non ce ne vogliamo altre. Avevamo fatto così tanti anni fa, eravamo in 5 arrivavamo. E avevo poche persone in giro, non aveva manco la pena, bastavano 5 persone, poi 27 un PMR va bene lo stesso. Sì, ma è meglio se lo fossi a Edo, a me te ne è manca a me, che da voi non ne voglio già bere. Hai compreso, vero Gian Maria? Vado io, non so. Ho fatto la cavacata, due anni l'ho fatta la cavacata, però non ce la faccio più a stare in piedi così, poi non mi va, capito? Ma ci sono quelle persone che mi piace a farlo, per cui già si troveranno, capito? Allora ci mandiamo a Bacchiglio. Devo fare i balancelli, non ti preoccupare, sono le guardie zuffide. Non stavo facendo loro il servizio anche per la cavalcata e cose del genere. Un balancello uguale a Zuffi se lo fanno loro. Ti pagano quello che è, mi sembra sono 100 euro quelli che sono, ma non è che li vedono subito, li vedono dopo 6 mesi. Pensa per me. Sì, non faccio altro, non vedrò Molanuzzi, pensa un poco, e non me ne affutti nulla. Già ce li hanno loro, già lo sanno da chi andare, non ti preoccupare. Già ce li hanno i cosi, dove devono andare. Già vi pensare, non ti preoccupare. Ma ti hanno fatto la sanno, non faccio neanche il sanno. E poi, in oggi compreso, quando ero dove va. Sì, sarà la prossima domenica, cosa ne so io, questo non so cosa dirti. Comunque sia, la cavalcata e cosa, ma guarda, l'ho fatto sempre o le guardie zuffide oppure i balancilli, capito? Con gli apparecchi, con gli apparati, tutto lì. Lo facevano in PMR e lo fa culo a tutti. Anzi, a volte lo facevano direttamente gli scout. Prima per loro facevano gli scout, poi gli scout si sono stufati anche loro e non hanno fatto più niente, quindi evidentemente adesso lo fanno loro. A parte poi i soldi li vedi dopo un anno, ce la fai. Non sarà. Così sarà in oggi, non ti rilassi subito. Io non ti rilassi subito, lo so, dopo un anno ti rilassi. Perché ci vuole tutto un giro strano, da fare la provincia, il comune, eccetera, eccetera. Lo sai come fanno, no? Poi recuperare i soldi, eccetera, eccetera. Signor Bacchi! Cosa vuoi? Ah, mi pare che sei con la fumata netta a Cazzona, adesso. No, sei scido, signor Bacchi! Cosa c'è? Dove? Non da va, non la voce! Stavo le chiedi portando che sono scelto, buonasera a tutti! Ricciusi. Io sono giusto a parlare, ma che è l'importante? Ma chi c'ho? Ma chi sta facendo l'importante? È strano. C'è qualcuno che sta facendo l'importante? No, è Battisio. Oh, Battisio, non stai uscendo. Ciao, Marie. Buonasera, giovedì, ciao, squalo, Battisio, non sta uscendo. Battisio, non so, avanti, giovedì, buonasera a tutti comunque, vai. Battisio è che non lo sta funzionando parecchio. È sempre lui che ci ha visto in mano, eh. Allora dice che ci farà fuoco, vera. Ti ha lasciato però l'incendio. Ah va, mi pare che tornando a piglia fuoco, boh. E non se ne capisce più niente il Bacchino. Buonasera, ben entrato Marino. Vai a Torre. Ehi, come mai ha pigliato fuoco Bacchino? Strano. Fino a ieri stavo uscendo. Ma perché ha fatto tagliato un po' di erba, comunque doveva bruciare, Antonio. Doveva bruciare un po' di erba, tutto qua. Ah, per quello, eh. E allora già va bene, ok. Comunque la radio non sta più uscendo, è strano. Il bip c'è comunque, quindi è con roba di microfono. Cambia microfono, Bacchi. Che è roba di microfono, non è roba di apparato. Già, sistema tutto Marchisio, adesso entra, sistema tutto, ok, avanti, Tore. Ehi, sono qua. E guarda, ho trovato a cosa, come si chiama, il presidente della Dolce, devi prepararti. Ah, oh, non vi gioco io, non ci sono, perché c'ho il compleanno dei miei nipoti, sia domenica che venne all'altra domenica, il 14, quindi non ci sono. E bisogna far trovare qualcuno a posto mio. No, io gli ho detto, ma sono il primo della lista, gli ho detto a cosa, non si chiama, va, a Fino. Sono il primo della lista, non preoccuparsi, un mattone non mancherà mai. Devo fare all'aria, dove è in prima fila. Vero Giovanni? E infatti, ma è... a Luca bisogna dirlo, lo so. Magari a parte Luca non ne ha impegni, per cui magari viene. Prova a fare una telefonata. Entro in settimana glielo dico, per il 14. Oggi non lo so cosa vi sarà. Pure Antonello. Antonello, ti interessa? Dimmi, che cosa? A fare per la processione del latte dolce. Mi lo sa Battisio, lo sa. Se avete lui, lo devi fare Antonello. Sì, ma a parecchi mi mancano a fare il servizio d'ordine. Ne ho 4 PMR. Basta, avanzano. Per me non c'è problema. No, non do io da Righi, boh. La frequenza già te la da Bacchisio. Già cammino di mattina e c'ho la gamba che non è... che non stiamo andando molto bene, comunque. Basta il chilometro che faccio la mattina. Sono volentieri, l'avevo fatto anch'io. Sentiamo le Bacchisio. È sempre importante, Bacchi. Adesso è sparito anche il bip. Boh, adesso mi sto già preoccupando. Bacchisio, fa una cosa, prenditi il primo tac che ti passa veloce, vieni che ti do la, il coso, la trompassetta, me la parli con quello, prima che si fonda del tutto. No, l'apparecchio già funziona, è il microfono che non anda. È sempre muto, Bacchi. No, adesso hai fatto anche il bip, non so se è notato bene. Hai fatto pure il bip, non so l'altro. Quindi sta andando male. Guarda, adesso? Adesso va bene. Adesso è uscito? Yes. Meno male, ero già preoccupato, Bacchimi. Se sta scendendo la radio vuol dire è a posto. Siccome non sento il bip, mi stavo già preoccupando. Ho cambiato radio, ho cambiato la radio, capito, quello l'ho tolto. È quello che hai guardato ultimamente, mica, hai cambiato il microfono, quello che non esce adesso. Vabbè, comunque, quando vuoi ti pigli il tram, già lo sai, me lo porti qua su, ti do la 86, usi quello, tanto è qui fermo. Già lo sai usare, non è che devo fare scuola per poterlo usare. Usi quello e sei a posto. Appena pronto l'altro, poi vieni e te lo ritiri. Andrà bene meno. Oh, signor Bacchi, guarda che forse la persona abbiamo trovata, c'è Antonello. Mi. Bene, Antonello, va bene. Andrà bene, non ci sono problemi. Sono a Giovanni che devi da Urlubando. A Giovanni bisogna cercarlo sulla candela. Devo cercare il numero di telefono e di telefono. Tanto in giro non lo vedo più. Sì, se c'è da qua da allora. Sa Drummen sotto la cara. Sicuro. A Marino hai detto che un lanca non funziona. Quanto sei cattivo, Otto? Non sono cattivo. Ma chi? Ah, Marino ha detto che non le funziona l'anca. Va bene, funziona bene. Quanto sei malizioso, no? Io già lo sai, sto basso nel camminato di mattina, non ho voglia sinceramente, sono volentieri l'avrei fatto. Allora, signor Maria. Ok. No, quando è la festa? Il 14, così è, Bacchi, il 14, okay, 14. No. Il 14 c'è la processione, il 12, 13 e 14. Ok. Va bene. E tu, Marino, ci puoi andare? No, Giovanni, volentieri. Io faccio ogni giorno il chilometro, io bastano quello che faccio di mattina il chilometro, Giovanni. Non è giocare, sinceramente. Quest'anno c'è l'azienda mio, Bacchi. Mi è arrivato il calendario, Franco mi ha mandato il calendario, il presidente, su WhatsApp. Ci sono l'azienda quest'anno. Ehi, l'azienda. I nuovi t'azienda, non sono, c'è solo Gigi il vecchio. Ehi, sono una fotocopia, guarda, cosa ne sono? Aspetta, quanti chilometri è questa processione? Era 4-5 chilometri, no, era 4, 3 chilometri, 4 al massimo. Guarda, adesso ti dico il percorso, si parte dalla chiesa, si scende dove la locomotiva, si gira sulla destra, si va parallela alla Budi, si sale dove il circolo dei comunisti, è il piazzale dove il campo sportivo. E si arriva alla Madonnina, si scende per le chiese nella chiesa, quello è il tragitto. Che me l'ho capito. Quindi in pratica si passa parallelo a Sant'Orsola, in pratica, là. Cioè, davanti a casa di Maria Manse, dopodiché scendi giù e poi già di nuovo sopra. Non si va, si passa la locomotiva dove da casa di Macallè, se ne ricordi di Macallè dove era? Si passa davanti alla casa di Macallè e si va a venire sulla Budi. Sulla Budi si prende la strada parallela alla Budi, sulla strada della Budi non si passa, c'è una strada via navigatori, mi sembra che sia quella lì. Si sale dritti fino alla cosa, al piazzale dove è il campo sportivo. Da lì si fa via Bottego, si passa di fronte a Mari, a cosa? A Gian Maria, e via, si passa dove era Corso, la buona anima di Capino, passero, e si scende per andare alla chiesa. Capito adesso. Vabbè, lì dove c'è la locomotiva ci abitava anche Fabrizio Mascherato, se fa questo, un pochettino più giù. Non lo so, non ti posso posso dire sì e no. Si passa di fronte a bombolo anche. In pratica si passa nella tava vecchia che si usava a posto della Buti Buti. Già ho capito, che poi arriva dove sono i quattro semafori, dove c'è la ferrovia. Ehi, alla ferrovia. No, alla ferrovia non si arriva. Prima, dove era la casa di Capino Passero, si scende poi nella discesa, di fronte a Soccorso Sardo. Ehi, già ho capito, Soccorso Sardo, poi prendi e si gira, che passi poi davanti a casa di Gio Maria. Già ho capito, lì abita Emanuele, cosa? Ha giù compreso. Ma io vabbè, non è che sia così tanto il giro, no? Anzi, era molto di più la cavalcata, la verità si dica, perché era un casino davvero quella lì. A partire dalle 7 del mattino fino ad arrivare su al quadrato, cioè, se ne faceva scendere la massa in terra. Scusa, Antonelli, non c'è Emanuele Pezzi, non ci passi neanche, va. È molto prima che entrano Emanuele, abito con la vita della suocera. Emanuele abita sempre nella Pisa e fronte al Bocciuffo, ho capito, ma su neanche ci arrivi. Fai via Bellini, c'è nella Madonnina dove c'è il soccorso sardo, ho capito, molto prima, dunque, come chilometri è poca roba. Avanti, ma che? Io. È vicino, è poco la strada da fare, non è molto. E diciamo, si stanno i pellegrini, Antonè. Qualcuno se vede che sta scappando lo deve tenere via. Tutto qua, ecco il lavoro. Avanti tu. Ehi, vabbè, con il PMV già è facile allora, è una cazzata. Siamo 4-5, non di più, già basta e avanza. Ehi, va benissimo, io vi controllo da qua, c'ho le piazze a telecamera da qua fino alla Dolce e vi controllo tramite monitor e ci parliamo tramite monitor, va? Avanti, ma chi? In tre sempre l'abbiamo fatta in tre, perché uno in coso in testa, uno in mezzo e uno alla coda, boh, tutto fatto, perché quello di avanti frena e va, dice vai avanti, fermati, che comanda è quello di dietro. Sei intasato, allora ferma, vai avanti, se c'è vuoto vai, ho capito, e così in tre bastano, non c'è neanche troppo. E vabbè, così anche usilo, non è che ce ne vogliono così tante di persone, la verità, basta uno su dove c'è il campetto di calcio, e basta uno lì, uno giù dove c'è un po' più giù della fontana, e poi uno su al paese e l'altro a metà strada, basta, non è che ce lo vogliamo tanto, capito? Una volta si faceva in macchina, c'era una 27, adesso ci sono i PMR e fanno lo stesso lavoro, anzi forse fanno anche meglio addirittura, non so l'altro. No, la fontana era la postazione mia, ogni anno mi toccava la fontana, dove era il CB, come si chiama, Angelo Sasso di nome e cognome, in frequenza non me lo ricordo come cavolo si faceva a chiamare. Angelo Asso? No, Asso era, lui che abitava al monte Angelo ultimamente abitava. Angelo Delfino magari sarei dicendo tu. Vabbè, io se ti ricordi bene una volta l'ho fatto su Ausilo, c'avevo l'apparecchio stato di fissa, c'avevo il Kimbo da agganciato proprio al centro della piazza con la gran presa, se ti ricordi bene, e quello che si metteva a parlare con il microfono, pigliavo, schiacciavo e si sentiva il bici, se ne ricordi bisogna anche Piazza d'Italia quando ho fatto la cavalcata, lo facevo nero, lo facevo io a quello che c'era le casse con il microfono. Non poteva la vita, mi diceva aspetti un attimino, mi parlo io, poi parlerei. Turno era. Avanti Gianmaria, che Gianmaria ci sta dormendo. Mi stava aspettando, devo chiudere, ma per quello approfitto, vai. Vi saluto. Grazie per avermi sentito, grazie anche a Caratina. Fa piacere sempre ogni tanto, vai, buon proseguimento. Ciao. ma che riprende tutto dopo chi con io. Antonello e Tore e Marino, dai. Vai, ma che riprende tu, io chiudo e c'ho da fare, ok? Ciao. Ciao Gian Maria, grazie della compagnia. Saluta in casa, a sentirci domani se tutto coincide. Buona serata ancora. Avanti Marino. Benissimo, ciao Gian Maria, ben sentito, saluto in casa. Ci sentiamo domani se coincide. Avanti Antonello. Ciao Gian Maria, ci sentiamo. Buona... buon sabato, buona domenica. Lo saluto con l'amica. Buona domenica, buon lunedì e domani. Adesso stavo uscendo, stavo pensando all'altro, stavo pensando. Saluto i bedi e buonanotte, buon tutto. Avanti squaletto. Ci sentiamo Gian Maria alle prossime, ok, ciao. Lo riprende Bacchi. Sì, riprendo io. E solo che quello di domenica il 14 è omaggio della ditta, Antonio, non ce n'è di petrodollari. È una beneficenza. Solo che c'è mangiare a bere quando abbiamo finito. E vabbè, non me la fotte nulla, ma attaccesco, non è quello il problema, già lo sai, non è che me la frega qui tanto. Capito? Poi basta che esco da casa, che non sono buttato, basta che passa l'ora, l'importante è che qualcuno mi accompagna a casa, dico se è quello, perché sono a piedi, tu lo sai, a me mettete in una postazione, fate quello che volete, poi mi prendete e poi mi accompagnate qua sopra, a voi il resto non me ne fotte nulla, no, non mi interessa avere soldi. No, il problema io non ti posso accompagnare perché la notte a guidare non ci vedo un piccolo, capito? Quando si finisce sono intorno alle 7:30, tra mangiare e bere ci passa quello da lì. E io che bisogna trovare uno che alla freccia bisogna lo dica, che si venga a prendere e ti riporti indietro. Ehi vabbè, anche perché sono a piedi, non c'ho neanche moto, se fossi stato con la moto magari sarei andato con la moto, sarebbe stato anche bello, sarebbe stato anche meglio, perché uscire in moto ti fa, c'è freschetto e si sta bene, capito? Vabbè, importa che io abbia un passaggio per salire e scendere, anche perché, cioè, da Osilo a Pallapeli vincerò che me ne scenderebbe la mazza a un certo punto. A metà strada no, ma a farla tutta venivo a me. Cioè, in discesa un conto, in strada lascio. Strano, non ce ne sono perché, Antonio. Ho capito, strade. Tram, bus, non ce ne sono. Bus. C'è il pullman che passa ogni 4 ore 20 minuti, però lo devi riprendere da Osilo, il discorso è quello, non so manco dove si ferma, il discorso è tutto lì. Se no c'è pullman che sale e scende, ma io penso quel giorno che il pullman non salga e scenda, come fa a salire e scendere? Se ci sono le persone a piedi, ma stai scherzando? Cambieranno i cosi, gli orari senz'altro. Antonio, guarda che quando la festa era veloce, non è a uso. Ah, no, io pensavo per quella veloce, lo stavo parlando. Se era veloce, vabbè, non c'è problema, vabbè. Fino alle 9:10 c'è l'ultimo tram, passa alle 10:15. Fatela lì e non c'è problema. No, solo quello di qua della festa e basta, lasciamo perdere quello di Usilo, non si fa nulla a quello, no, non ci pensare neanche. Ah, vabbè, l'ultimo tram comunque alle 10:15, quello che sale qua, la 5, la 25 là, che si prende da, la posso prendere tranquillamente dalla Teroggi, la vicina a casa di Fabio, non di Fabio, di Luca, Flipper. E che viene giusto, si esce dalla sede, no, si senta lì, come esci dalla sede di fronte alla sede della cosa, del circolo della Teronce, e c'è la fermata del tram, proprio di fronte. Sì, l'ultimo tram è 10:15, sale qua, cioè parte a 10:15, va lì e alle 10:30 dovrebbe arrivare qua, dopodiché scende e va direttamente lì in come si chiama, in azienda, quindi... Per quello già non ci sono problemi, se no se la biglia in Napoli è già sacco a piedi, già la tagliola dei gambi funzionano ancora, già ne faccio chilometri, piano piano, anzi fino anche meglio, perché quando veniva a coso il figlio di Mario Marcel al centro storico, l'accompagnavo fino a casa sua, poi tornavo nuovo indietro, tu ti figurati tu, tutto a piedi me. Quindi immaginati, poi vabbè, l'unico pezzo in salita è quello che c'è con questo Vittorio Emanuele, che poi non vale neanche la pena, basta passare, salire in Venombetto e poi girare. Una volta che poi giri di Venombetto viene tutto quanto in piano, piano piano pigli i cammini e alzi. In 3-4 ore sono a casa io qua. Come fai la candela? Un 1,30 sale tranquillo, senza fatica. Non ci sono problemi per quello, Antonio. Rimborsiamo dalla società, facciamo dare i soldi per il tram. Diciamo, Franco, molla i soldi del tram. È meglio che si fai le palle. È meglio. Che ti sei esagerato, Mario. Sì, sono una bussia. Dai, io ci trovo un passaggio, vai. Lui c'è Franco e ti fa accompagnare qualcuno. Altrimenti non hai problemi, già c'è qualcuno ti accompagna, vai. Andiamo solo così secca, vai. Allora, detto, ma chi? Sì, infatti, non sono così secca. Basta venire, sei morto di fame, Antonio, e così mangi. Non mangiare a pranzo, non mangi quando scendi. Io sarei rimasto la settimana, se non vai, secondo me, forse è meglio. Sto la settimana che non mangio, ce la faccio a fare, vai, vai, saga per lì. Assaggio e basta, già lo sai che io mi fido di... è la stessa cosa di andare a mangiare per dire quando fanno la festa al centro storico che c'è la fata dei Gandirini, che non sai, la carne di circoli, chissà chi ci ha sputato sopra, forse meglio non mangiarne mai, lascia perdere. Meglio nulla, io lo sai, avanti, ma chi? Sì, ma quella della croce è cosa confezionata dalla pasticceria, capito? È roba che fanno in pasticceria, non è roba che fanno loro, è roba confezionata che arriva da porta da fuori. Dunque tranquilla, si può mangiare bene tranquillo. Sì, vabbè, a me già me, ma io adesso la giocata di magna, l'ho già mangiato a casa, se la viene da poi. Piacciono di cose, di pizzerie, al limite mangio pizzette, a voglia, è pieno, anche di Alessio Roce mi ci sono c'è la pizzeria che fa quelle pizzette al taglio, me ne piglio un paio e ho cenato, e sono più tranquillo. Ma le pizzette già ci sono anche nella sede del circolo, ci sono le pizzette, ci sono i panini, c'è di tutto, c'è Antonio, quello che vado a mangiare già non manca mai. Ah, quale circolo è? Quel circolo che c'è di vecchietti, di fronte alla, come si dice, all'ufficio di collocamento? No, questo è dove era il CER, la scala vicino al CER, c'è la sede, questo circolo, aspetta un momento, esatto. Il circolo ricreativo o donna della dolce, una cosa del genere. Ah, vabbè, di fronte a quello degli anziani, c'è quello degli anziani, già ho capito quale, lo conosco. Lì che vabbè, già ho compreso quale. Invece le circolo anziani ci va coso. Giovanni la freccia là, coso, andiamo si chiama l'altro, che adesso non sappiamo durando, è arrivato. Sono due circoli, uno di fronte all'altro, in quelle palazzine di fronte all'ufficio di collocamento, già ho compreso. Ci va Gianni, Antonio, Gianni, già capito, cioè Gianni Straniero, Gianni, vabbè, già capito, dai. Però uno è anziano e l'altro è il circolo acqui, e quello che dicevo, ma chi non risulta all'interno, dietro gli anziani, nella piazza Motto non risulta, proprio, vi faccio la serve proprio, capito, avanti. Già ho capito, già riconosco tutti quei circoli, rigola di due. Già me lo ricordo, già ho capito. Quello lì non è ciclo, quello lì è, quello lì è la sede dell'associazione, tutto qua, quello lì non è un ciclo, è la sede dell'associazione della Madonna della Croce. Poi un attimo, ma chi? Infatti rimane sopra gli anziani sono sotto e il circolo della Madonna una croce e rimane sopra l'altra parte, in via Bottego. Ho capito, va bene. Ho poco prendito, chiaro sono dov'è. Poi già non ti perdi, lasciamo noi, lasciamo in compagnia. Va bene, non c'è problema per quello. Gli apparati in carica, quei due neri, bastano. Se usiamo il PMR a voglia, già va bene, perché il 27 cosa non ne vale manco la pena usarli. A stare con queste antenne lunghe, ma ve la vai. Invece questi qui, i PMR sono antenne a corta, vanno bene lo stesso. E durano anche di più, non solo l'altro. E anche più pulita. Anche più pulita la modulazione. Capito? La freccia che non ne ha. La freccia è a mano in tasca. La freccia ne ha 15, portatevi, e sono i nostri, già lo sai. Le abbiamo pagati noi. 100 euro l'uno l'abbiamo pagati, quei portatevi. Non ce l'ha mai dato, abbiamo dato i soldi, non ci ha mai dato gli apparati. Giovanni. Quindi in questi giorni glielo richiediamo, perché è roba nostra, non ho capito. L'ultima cavalcata che abbiamo fatto, abbiamo dato i soldi a lui. Io non ho ricevuto niente, solo per comprare gli apparati. Dopodiché non si era fatto più nulla dell'associazione, e quindi gli apparati si era tenuti lui, 12.000 dovrebbe averne. E c'era ancora tutto la lì a casa sua.